e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buon lunedì, siamo in diretta anche oggi, in questo 28 dicembre, un lunedì un po' particolare per molti di vacanza, siamo proprio nel bel mezzo delle feste, c'è ancora aria di festa e aria di Natale nelle nostre case, ma lo sappiamo invece l'aria che respiriamo nelle nostre città in questi giorni non è affatto buona e salutare, e ogni giorno ci risvegliamo e sentiamo parlare di questa emergenza in modo sempre più importante. Della qualità dell'aria che respiriamo torneremo a parlare come ogni giorno anche a Cuore Denari, la terremo sotto controllo con i consigli del dottor Mocci. Nella prima parte della trasmissione però parleremo di lavoro, molti oggi sono in ferie ma tanti come ogni lunedì infatti tornano sul posto di lavoro. 800 24 00 24, raccontateci se siete sul vostro posto di lavoro ma anche se siete a casa, che anno è stato questo 2015 dal punto di vista del lavoro per voi e per la vostra famiglia. Di lavoro lo sappiamo c'è un gran bisogno dopo questi anni di crisi, noi ne auguriamo in abbondanza a tutti voi in ascolto e alle vostre famiglie, e nella prima parte di Cuore Denari faremo il punto sul 2015 e sulle prospettive per il 2016 del mondo del lavoro in Italia. Vedremo insieme quali novità ha portato la legge di stabilità che è stata da poco votata. Poi ci concentreremo in particolare su una categoria di lavoratori che sappiamo essere grandi ascoltatori della nostra radio, gli autotrasportatori, un lavoro duro che mette a dura prova anche lo stato fisico e il benessere. Insomma, cari autotrasportatori all'ascolto, siete un po' gli ascoltatori perfetti, no? Di Cuore Denari. Allora vi aspettiamo all'800 24 00 24 con tutte le vostre domande, i vostri interventi, ma per la nostra prima parte aspettiamo anche tutti i vostri interventi in tema di lavoro. Se c'è qualcosa dalle novità legislative di quest'anno che non vi è tanto chiaro, iniziate subito a chiamarci. Noi oggi facciamo lavorare subito Alessandro Rotaporta, consulente del lavoro ed esperto per il Sole 24 Ore. Buongiorno e auguri. Buongiorno, auguri anche a voi e grazie dell'invito. Stiamo per salutare il 2015, che è stato un anno che ha visto molte trasformazioni nel mondo del lavoro, insomma, che vi ha dato molto da fare, diciamo la verità. Sì, in questo 2015 non ci siamo annoiati, no, non abbiamo avuto il tempo. È un trend ormai vorticoso di evoluzione legislativa che ci portiamo dietro da, diciamo, da almeno 5-6 anni, quindi dal 2010 soprattutto, quando è diventato un po' di moda per ogni governo fare le sue riforme in materia di lavoro, quindi siamo ormai collaudati. Questo 2015 è stato ancora più impegnativo perché c'è stata tutta l'attuazione del cosiddetto Jobs Act. Il Jobs Act è una legge delega che è stata varata alla fine del 2014 e nel 2015 ha visto l'attuazione di 8 decreti legislativi, quindi è un percorso iniziato proprio a marzo con l'emanazione dei primi decreti e si è concluso a settembre. Dico concluso per modo di dire perché poi questo pacchetto di norme, quindi questo grosso contenitore che ha un po' rivoluzionato la normativa sul lavoro, necessita poi di altri tassellini. Di questo parleremo con lei. 800 24 00 24 per gli ascoltatori che vogliono mettersi in contatto con noi. Sappiamo che appunto è stata votata la legge di stabilità, da cui indubbiamente dipendono molti aspetti importanti sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. Ma guardiamo anche intorno a noi. Sarà capitata a qualcuno, noi speriamo a molti, perché questa è una buona notizia, di sentire che amici, parenti o colleghi proprio in questi ultimi giorni dell'anno stanno firmando, potremmo dire per il rotto della cuffia, un contratto a tempo indeterminato. Questo perché c'era tempo fino alla fine dell'anno per le aziende per avere degli importanti sgravi per le assunzioni, è corretto? Ci spiega un po' meglio? Cosa è successo in sintesi? Che appunto legato a questo disegno del Jobs Act è stato introdotto questo famoso contratto a tutele crescenti, poi magari lo spieghiamo un attimino cosa vuol dire. Correlando a questo contratto, che è un contratto a tempo, diciamo una declinazione dei contratti a tempo indeterminato, il governo ha deciso di mettere sul piatto un sistema di incentivi proprio per favorire la stipulazione e la trasformazione in contratti a tempo indeterminato, sì, consentendo un esonero legato, ovviamente sussistendo determinate condizioni, un esonero triennale dalla contribuzione INPS per le assunzioni effettuate nel corso del 2015. Quindi questo è un po' l'effetto per cui molte aziende ancora in questi ultimi giorni dell'anno si stanno concentrando a vedere se possono sfruttare questa agevolazione, che comunque è un'agevolazione importante. Ed è stato sicuramente un contratto che è stato un grande protagonista di questo 2015, direi, no? Ma sì, diciamo che c'è stato un po' di balletto di numeri, Istat, Ministero del Lavoro, IMSS, che tra l'altro adesso proprio in coda, con pochi giorni fa, hanno sottoscritto un protocollo per nel futuro fornire proprio delle proiezioni che siano condivise e univoche, perché poi questi dati un po' confondono, però tutto sommato possiamo dire che l'effetto in ogni caso da qualsiasi parte si vogliano leggere i dati è stato comunque positivo, cioè quindi il contratto a tempo indeterminato, i numeri sono cresciuti, quindi le aziende tutto sommato avevano anche bisogno di una boccata di ossigeno in questo momento di difficoltà, per cui è servito. È logico che questo trend è importante che continui verso una riduzione strutturale dei costi, perché altrimenti poi si rischia addirittura quasi un effetto inverso, perché poi quando queste agevolazioni finiranno si spera intanto di essere usciti dalla fase di recessione, ma ci vuole una politica che ci metta quantomeno vicini agli altri paesi europei che hanno un costo del lavoro inferiore rispetto al nostro. Allora, invito i nostri ascoltatori a chiamarci, lo state già facendo all'800 24 00 24. Facciamo un po' un bilancio, si fa sempre alla fine dell'anno, ma le leggo questo messaggio che mi invita a chiederle che cosa distingue questo contratto a tutele crescenti rispetto agli altri che venivano applicati, insomma quali sono le differenze. Allora, intanto precisiamo subito che il contratto a tutele crescenti si applica per gli assunti, e quindi lavoratori assunti o trasformati a tempo indeterminato, quindi che provenivano da contratti a termine, a far data dal 7 marzo del 2015. Quindi chi ha un contratto di lavoro sottoscritto in periodo antecedente a questa data ha il vecchio sistema dell'articolo 18, se così vogliamo semplificare, di tutele. Cos'è il contratto a tutele crescenti? Non è nient'altro che un'applicazione di questa norma che dà diciamo delle conseguenze diverse rispetto al recesso paragonandolo al sistema dell'articolo 18. Soldoni sì, grazie. Allora, soldoni cosa vuol dire? Che quindi sgombriamo il campo delle ideologie. Sui licenziamenti discriminatori non è cambiato nulla, quindi se oggi un assunto col contratto a tutele crescenti subisce un licenziamento di carattere discriminatorio ha diritto alla integrazione, quindi questo è come il passato. Quello che è cambiato invece, la grossa novità, è che sui licenziamenti cosiddetti economici, per fare un esempio, sì, all'azienda manca il lavoro e riduce il personale attuando dei licenziamenti, è stata esclusa in questi casi la reintegra, mentre prima c'erano delle ipotesi su questo tipo di licenziamenti nel regime previgente, quindi che si applica ancora, ricordiamolo, ai vecchi assunti, quindi prima del 7 marzo 2015, in alcuni casi era possibile ottenere dal giudice, in caso di licenziamento illegittimo, la reintegra sul posto di lavoro. Questa è la grossa differenza. Però, attenzione, cioè non è che il lavoratore sia privo di tutele, perché ci sono comunque delle misure, tra l'altro in modo positivo. Perché è positivo? Perché chiaramente fissate dalla legge, cioè quindi è la legge che dice quanto è l'indennizzo anche in questi casi, quindi il lavoratore che dovesse subire un licenziamento economico illegittimo ha diritto a un risarcimento che addirittura può arrivare a 24 mesi di stipendio, di risarcimento. Allora sentiamo, c'è Carlo che ci chiama da Milano al nostro numero verde, gli diamo il buongiorno e il benvenuto. Grazie Carlo. Buongiorno. Buongiorno e buona giornata anche agli ascoltatori. Grazie Carlo, ci racconti. Allora, io sono un medico. Sì. Tutti ci dimentichiamo dei medici, scusatemi, se non quando stiamo male. E quando gli altri sono in vacanza, noi siamo in pronto soccorso, facciamo i turni di notte, curiamo le persone che sono nei reparti. La nostra sanità la teniamo in piedi soprattutto noi come medici e come infermieri. Allora, dove sta però oggi il problema? Il problema è che nella scarsità di fondi che si stanno operando si stanno tagliando sulle risorse umane, sulle persone, sugli infermieri, e in questo modo noi avremo una sanità sempre più povera di persone e sempre più relativamente ricca di tecnologie. Ma non sono le TAC, le risonanze magnetiche, piuttosto che gli esami del sangue che curano le persone, ma sono i medici e gli infermieri che poi usano queste tecnologie. Allora oggi la nostra sanità sta in piedi soprattutto per la buona volontà di tutti gli operatori della sanità. Quando studiavo io, cioè oggi ho 56 anni, più di 30 anni fa, ho fatto per quasi 15 anni l'anatomopatologo, ora faccio il direttore sanitario. Dicevo, quando ho studiato io, la medicina era ancora considerata una missione, era ancora considerata un'attività a scarsa remunerazione. Bene, io vorrei a questo punto dirvi che noi siamo rimasti fermi proprio a quel tempo lì. Il nostro contratto è fermo da moltissimi anni, noi siamo la categoria che contribuisce a creare la classe media e in questo modo noi stiamo avendo una penalizzazione molto grave che si sarà, purtroppo la sconteremo sulla pelle sia dei pazienti sia delle nostre professioni del futuro. Quindi io vi esorto a riflettere sul fatto che è vero che la nostra sanità è, virgolette, gratuita, ma i nostri stipendi non lo sono e la nostra professionalità risente moltissimo dal fatto che non ci sono più risorse umane disponibili e stipendi all'altezza di un medico di buona qualità. Quindi una riflessione amara quella di Carlo, che ringraziamo per aver partecipato, poi a cuore denari i medici sono, come dire, di casa. Alessandro Rotaporta, un commento. Ma guardi, cioè sicuramente uno dei settori come molti altri che purtroppo sono, cioè il problema dei fondi, come diceva giustamente l'ascoltatore, è un problema che si ripercuote un po' su tutti i capitoli. Certo. E ovviamente molte volte anche misure che in campo lavoro che possono essere positive da una parte poi sottraggono fondi da altre, quindi questo del bilancio lo sappiamo tutti, non solo noi addetti al lavoro ma i cittadini in comune, che comunque tocca a 360 gradi purtroppo. Comunque ricordiamo tutte le persone, l'abbiamo detto proprio in apertura, che lavorano anche quando le persone sono solitamente in vacanza. Inseriamo naturalmente anche i medici, gli infermieri, ma non sono solo queste categorie che mandano, come si dice, avanti l'Italia. Rotaporta, torniamo invece all'agevolazione per i datori di lavoro che assumono. La legge di stabilità le conferma, ma mi sembra in misura un po' inferiore, corretto? Sì, perché adesso, come accennavamo prima, i nuovi assunti a tempo indeterminato portavano in dote al datore di lavoro un esonero dalla contribuzione INPS pressoché totale per 3 anni. Adesso sì. con la legge di stabilità si parla infatti di mini esonero, perché per le assunzioni a tempo indeterminato del 2016 lo sconto sui contributi INPS sarà soltanto più del 40%, ma con un tetto massimo di 3.250 euro annuali di sconto, e soltanto più, non quindi per 3 anni ma per 2 anni. Poi può darsi che esca qualcosina in più per il sud, perché è previsto un monitoraggio che, diciamo che anche qui, ecco, torniamo al discorso dei fondi, se il governo riuscirà a racimolare delle risorse aggiuntive, allora può darsi che la dote per il sud in corsa venga maggiorata, venga potenziata. Adesso noi ci fermiamo perché andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, e quindi lanciano, no, l'invito agli autotrasportatori nella seconda parte della trasmissione. L'attenzione di Cuore Denari sarà proprio su di voi, quindi chiamateci, localizzatevi, raccontateci di voi. 800 24 00 24, andiamo sulle strade, e vi ricordo che parleremo come sempre nella nostra rubrica dell'aria che respiriamo con il dottor Mocci, quindi non perdetevi questa puntata di Cuore Denari, localizzatevi, chiamate il nostro numero verde, intervenite. A tra poco. Cuore e denari. E bentornati e benvenute a Cuore Denari, siamo sempre qui, abbiamo aperto quest'ultima settimana dell'anno parlando di lavoro e con noi c'è Alessandro Rotaporta, consulente del lavoro ed esperto per il Sole 24 Ore. Ho lanciato Alessandro Rotaporta ai nostri ascoltatori, no? Chiesto raccontateci com'è stato il lavoro nel 2015, ringrazio Mauro che ci ha mandato un tweet e ci scrive sempre più stressante il lavoro a basso costo e tendente al livellamento. Insomma, l'aria, la qualità dell'aria che respiriamo non è buona, ma dai messaggi che stanno arrivando anche sul fronte, no, del lavoro, c'è un po' di pessimismo, Rotaporta. Ma allora, diciamo che il quadro in genere non è un quadro dei migliori, perché comunque sia gli ultimi anni sono stati molto pesanti. Sì, diciamo che è grigio smog, se dovessimo dargli un colore. È grigio smog, però almeno io di solito sono abbastanza critico, però direi che dei buoni semi sono stati buttati in questo 2015. Qualcosa di positivo, visto che siamo a fine anno, magari cerchiamo di essere un minimo ottimisti. Qualcosa di positivo si vede anche per il 2016, nel senso che la legge di stabilità ha qualche buona misura sotto il punto di vista, ad esempio, del welfare aziendale, ad esempio c'è il ritorno, anche se per cifre non eclatanti, però c'è il ritorno della detassazione sui premi, ecco, di produttività. Quindi questo vuol dire che se il datore di lavoro ci dà qualcosa in più perché l'azienda ha conseguito un buon risultato, su quel bonus noi non paghiamo le stesse tasse applicate invece al nostro stipendio. Esatto, era una misura che è stata tenuta in piedi fino al 2014, poi l'anno scorso, quest'anno nel 2015 non c'erano le risorse per poterla finanziare, nel 2016 torna a livello strutturale, quindi non dovrebbe più essere una misura spot, ma dovrebbe essere una cosa, diciamo, strutturale per le aziende e per i lavoratori, che laddove ci siano dei contratti integrativi che stabiliscono delle misure premianti, quindi dei plus di retribuzione, bene, a questi importi, con determinate regole che devono essere poi definite a breve da un decreto ministeriale, si pagherà soltanto il 10% come una sorta di cedolare secca, anziché le aliquote IRPEF ordinarie, e quindi questa aliquota sostituisce anche le addizionali regionali e comunali, per cui qualcosina in tasca in più, soprattutto in quelle aziende virtuose dove ci sono questi meccanismi incentivanti, dovrebbe andare anche in tasca ai lavoratori. Quindi Rotaporta, potremmo, riprendendo un po' il paragone con il tempo, sembra che ci sia nebbia, ma poi la nebbia, dietro la nebbia potrebbe esserci il sole. Ma guardi, comunque dal punto di vista, lo accennavo prima, anche il disegno del Jobs Act può, diciamo, piacere o non piacere, però da un punto di vista tecnico è stato fatto un lavoro comunque organico, cosa che negli ultimi anni non avevamo visto. Avevamo abituati a una normativa fatta a spezzatino, copia e incolla, un pezzo di qua, un pezzo di là. Il lavoro che è stato fatto ha una visione, comunque, questo va riconosciuto, di ampio respiro. Ripeto, però c'è la strada da fare ancora lunga. Beh, ci sono però tanti pezzettini che mancano. Ecco, però insomma, ci stiamo incamminando. Carmela, buongiorno, ci chiama da Milano, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. E auguri. Tanti auguri anche a voi. Ci dica, Carmela. Ecco, io ho dovuto aprire la partita IVA nel 2006 dopo aver avuto un contratto per 2 anni come Cocopro, Cocopo, eccetera. E tutti Cocopo. Ecco, dal 2006 quindi lavoro con 80% del mio reddito con un'unica azienda. Sì. E ho una postazione fissa e a tutti gli effetti un lavoro subordinato. Volevo sapere se dal 1° di gennaio 2016 l'azienda dovrebbe modificare il mio contratto o devo farlo io? Si cambia qualcosa? Cambierà qualcosa, Rotaporta? Ma allora sì, la normativa è cambiata, nel senso che quegli indici che citava l'ascoltatrice, quindi 80% monocommittenza, sono, diciamo, stati superati da una delle varie disposizioni del Jobs Act. Diciamo che il problema, vabbè, indirettamente ce l'ha anche la lavoratrice, perché di fatto è impiegata come autonoma, ma poi se, come dice lei, il rapporto si svolge con i crismi della subordinazione, è di fatto una subordinata. Qui il problema ce l'ha direttamente sicuramente l'azienda, perché nel momento in cui la lavoratrice dovesse andare a proporre una situazione vertenziale oppure diciamo in occasione di un accertamento ispettivo, quel rapporto di lavoro verrebbe, ma questo avveniva anche prima della Fornero, cioè verrebbe riconosciuto come subordinato, cioè la forma in questo caso è superata dalla sostanza. E su questo senso qui questa disposizione del Jobs Act rafforza ancora di più il vincolo di subordinazione su queste ipotesi, perché laddove c'è la prestazione organizzata sia oltre ad altri aspetti, ma anche nel luogo e nel tempo organizzata dal committente, quella prestazione, anche se formalmente c'è un contratto con una partita IVA, di fatto è presunta come subordinata, per cui viene rafforzato ancora di più questo aspetto. È chiaro. Rotaporta, prima di salutarci, le chiedo ancora una considerazione su questo 2016 che arriva per il mondo del lavoro. Quali altre novità importanti potrebbero arrivare, o in generale quali cambiamenti potremmo apprezzare tra un anno? Ma guardi, mi vengono in mente due aspetti. Uno, sempre legato al Jobs Act, le politiche attive. Deve partire proprio a giorni, quindi col 2016, l'ANPAL, che è il nuovo organismo che dovrà governare, questa agenzia nazionale che dovrà gestire il sistema di politiche attive. Qui purtroppo c'è il sistema che si utilizzerà, sarà sempre deriva dalla vecchia impostazione, quindi il sistema dei centri per impiego, però è un disegno molto ambizioso. Questo potrebbe essere, se davvero verrà completato in modo efficace questo disegno delle politiche attive, potrebbe essere veramente una chiave di rilancio, soprattutto per i tanti anche ascoltatori che magari oggi sono senza lavoro. Quindi direi un aspetto che viene in mente è questo, politiche attive. L'altro aspetto, e qui c'è qualche germe nella legge di stabilità, staffetta generazionale. Ci sono c'è una norma che dovrebbe favorire l'uscita di chi è vicino alla pensione attraverso dei contratti, la stipulazione e la trasformazione dei propri contratti a tempo pieno in contratti part time, e di conseguenza favorire l'ingresso dei giovani. Io spero che queste misure veramente si vengano coltivate a dovere e che portino dei frutti positivi. Allora, Rotaporta, sì, incrociamo le dita, speriamo. Mi piace chiudere con queste, no, con questo pensiero positivo. C'è una categoria, Rotaporta, che ci è particolarmente caro, visto che nella nostra trasmissione parliamo di denari, di lavoro, ma anche di salute e di benessere, ed è quella dei lavoratori usuranti. Rotaporta, ci ricorda in breve chi sono questi lavoratori e che tipo di trattamenti particolari hanno diritto? Sì, allora sono dei lavoratori che cosiddetti addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, che sono individuati da una normativa specifica, quindi sono proprio elencati da questa normativa, che hanno praticamente un accesso anticipato al pensionamento. Citiamo alcuni, ad esempio sì, i lavoratori a catena, quelli che prestano per la maggior parte del loro tempo lavoro notturno, chi lavora in galleria, in cava, lavori ad alta temperatura, insomma tutte quelle lavorazioni particolarmente appunto faticose elencate dalla normativa, che con determinati requisiti di svolgimento di quell'attività danno un accesso anticipato appunto alla pensione. Per quanto riguarda gli autisti, purtroppo i conducenti dei mezzi dei mezzi pesanti, dei mezzi rotabili, non sono contemplati in questo elenco. Ci sono i conducenti invece dei veicoli con capienza non inferiore a 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto, quindi è un po' divisa a metà la categoria dei trasportatori, perché la maggior parte degli addetti, quindi quelli addetti ai mezzi pesanti, non rientrano, seppur la lavorazione sia sicuramente faticosa e pesante, non sono inclusi in questa elencazione. Ecco, vediamo però tante petizioni e iniziative che chiedono la classificazione di lavoro usurante a tutti gli effetti per gli autotrasportatori, è corretto? Abbiamo visto... Sì, perché comunque dall'inizio appunto non era rientrata, però come dicevo è un po' una situazione discriminante, se vogliamo, rispetto ad altre lavorazioni. lavorazioni che invece sono state annoverate in questo perimetro. Infatti oggi ci occupiamo degli autotrasportatori, insomma a cuore denari li mettiamo proprio al centro della nostra attenzione. Intanto auguri e grazie ad Alessandro Rotaporta per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e buon anno, un buon 2016. Grazie a voi e auguri a tutti. Camionista cercasi, 800 24 00 24, se siete tra questi diteci cosa ne pensate, percepite il vostro lavoro come usurante e perché. La puntata di oggi, come anticipate, è dedicata a voi, chiamateci al nostro numero verde e raccontateci luce e ombre di questo lavoro. Noi vediamo i camion sulle nostre strade, autostrade, ma non sempre pensiamo a quanto il lavoro dei camionisti abbia un collegamento diretto con tante cose, no, della nostra vita quotidiana, con tanti servizi che ci vengono forniti, prodotti e merci viaggiano per chilometri e chilometri, c'è l'esigenza di consegnare nei tempi giusti perché tutto funzioni, li troviamo sui banconi degli esercizi commerciali, ma servono anche a far funzionare le nostre industrie, a rifornire i nostri mezzi di trasporto, e in questi lunghi viaggi c'è sempre una persona che ha il compito di rispettare ad esempio la qualità nella conservazione nel tragitto, di non sforare i tempi e gli orari, di percorrere chilometri in sicurezza e soprattutto con attenzione, vista anche l'importanza di questi veicoli sulle nostre strade. Insomma, li chiamiamo mezzi pesanti, ma anche per chi ci lavora dentro c'è un bel peso da sostenere, una bella responsabilità e, lo sappiamo, una grande fatica, credo anche fisica. Allora, nostro numero verde a disposizione, localizzatevi, intervenite, il vostro profilo è molto interessante, tanto che, pensate, se ne è occupata anche una ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia. In linea con noi abbiamo la professoressa Margherita Bergomi, che l'ha curata. Buongiorno. Buongiorno. Professoressa Bergomi, il camionista ha catturato la vostra attenzione, per questo l'avete studiata attentamente. Ma che cosa avete scoperto di lui? La nostra indagine innanzitutto era volta a raccogliere delle informazioni per relative ai fattori connessi alla sicurezza stradale. Sì. Sia relativi ai veicoli che ai conducenti. È stata una ricerca in collaborazione con l'Osservatorio regionale della sicurezza stradale, con la Polizia della strada e con la motorizzazione civile. E noi in particolare ci siamo occupati di rilevare le caratteristiche dei conducenti di questi autoveicoli che transitavano nella provincia di Modena. Sì. Ci tratteggia allora il profilo che è emerso dalla vostra ricerca? Abbiamo... Sì. Sì, inizia a dirmi qualche caratteristica, poi semmai torniamo dopo il GR. Allora. Sì. Allora, complessivamente abbiamo preso in esame 59 conducenti di veicoli pesanti che sì. hanno consentito alle interviste, alle misurazioni strumentali che abbiamo eseguito su di loro. Avevano un'età media di 42 anni. Ok, quindi siamo un po' nel cuore dell'età e della vita. Allora, fermiamoci perché Carmelo Lauricello, professoressa, venga con me, andiamo a sentire il nostro GR e poi tratteggiamo insieme l'identikit del nostro camionista. Tra poco. Cuore e denari. Ma insomma, me la fa o non me la fa, signore? Ah, signore, è fatta. Sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma. Ma i camionisti sono bravi. Io mi ricordo facevo amore con un camionista, era tanto buono e bravo. Io la saluto, signore. Io vi ringrazio. Mi vado a fare una mezz'ora di sonno, perché io vengo dal Brenno. Sto mestiere non è un mestiere, è una galera. Madonna, ma come vi chiamate? Come mi chiamo? Mi chiamo del Principe, signore. Ma davvero? È il Principe. Io vi auguro buon viaggio, Principe. Tante grazie e tanti auguri. Signore, è stato solo. Grazie, grazie tante. Principi all'ascolto, 800 24 00 24. Oggi, come anticipato, parliamo dell'autotrasportatore. Di lui si è occupata anche una ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia. In linea con noi abbiamo la professoressa Margherita Bergomi, che l'ha curata. Professoressa, buongiorno, ribuongiorno e ribenvenuta a Cuore Denari. Allora, avete analizzato un profilo particolare. Che cosa è emerso dalla vostra ricerca? Ricerca. Dunque, i dati più interessanti riguardano la quota molto rilevante di conducenti di veicoli pesanti in sovrappeso o francamente obesi, circa il 60% è risultato in sovrappeso e ben il 20% di soggetti classificabili come obiettivi. Sì. Che è sicuramente una cosa molto più rilevante rispetto al resto della popolazione. Altro dato interessante riguarda la frequenza notevole di soggetti con pressione arteriosa sistolica e diastolica elevata superiore ai 140-90 mm di mercurio, anche se si parla di ipertensione di grado lieve, sì, soltanto pochi soggetti, però è una quota molto rilevante. Quindi sovrappeso, a volte sovrappeso, lievemente iperteso. Lievemente ipertesi, i due dati sono tra l'altro correlati tra di loro, il sovrappeso facilmente sono anche ipertesi. E altro dato interessante riguarda le abitudini degli autisti, e per esempio le abitudini al sonno. Dormono frequentemente poco, circa un terzo dei soggetti intervistati, presi in esame, ha dichiarato di dormire meno di 6 ore, e questo può essere rilevante perché il debito di sonno, dormire poco di quanto richiesto dal nostro organismo, facilmente porta a sonnolenza diurna, e quindi anche un rischio per la sicurezza, per la sicurezza stradale, un rischio anche per la salute, perché anche dormire poco si associa all'obesità, al sovrappeso, perché aumenta l'appetito a dormire poco. E non è solo questo, no, che porta all'insonnia, porta una serie di disturbi di cui abbiamo parlato tante volte a Cuore Denari. Sì. Quindi è in sovrappeso, leggermente iperteso, ha una cattiva qualità di sonno che incide poi sulla sicurezza e anche sulla salute sicurezza generale. Stressato, immagino, perché sì, in il carico di lavoro. Abbiamo valutato, ma in altre ricerche abbiamo valutato lo stress negli autotrasportatori. Allora, professoressa Bergomi, voi l'avete così fotografato, noi oggi a Cuore Denari ci occupiamo di lui, perché direi sedentarietà, sovrappeso e stress, le tre S del camionista, no? Tre condizioni che diventano, come ben sappiamo, fattori di rischio e che impattano sulla salute e il benessere del nostro uomo. Professoressa, intanto la ringrazio e la saluto per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Grazie, e auguri per l'anno nuovo. Grazie. Allora, oggi corriamo in aiuto dell'autotrasportatore, cercheremo naturalmente, come sempre, di lavorare sulla prevenzione, ma proveremo anche a dare suggerimenti per risolvere alcune situazioni che provocano disagio, diventano a loro volta causa o fattore scatenante di altri problemi. Pensiamo alla qualità del sonno, lo accennava la professoressa Bergomi, che lo sappiamo bene, se non è adeguata può compromettere naturalmente anche la sicurezza alla guida. Ma io non voglio rubare spazio ai nostri esperti, sono due, perché il caso è complesso, il dottor Dario Oscar Archetti, che è fisioterapia specializzato in tecniche di medicina manuale. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. E poi è tornato a trovarci il dottor Massimo Gualerzi. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Cardiologo della Fondazione Dognocchi di Parma, all'Università di Parma, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica. Dicevo che il caso è complesso, quindi diamoci da fare, prepariamo subito il nostro piano di lavoro. Abbiamo detto che ci prenderemo cura del camionista, ma anche di tutti coloro che si riconoscono nel profilo che è stato descritto dalla professoressa Bergomi dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Quindi ci rivolgiamo al sedentario, con qualche chilo di troppo, sottoposto a stress e a sollecitazioni continue. Voi naturalmente ci guiderete in un viaggio, dottor Gualerzi e dottor Archetti. Noi partiremo dalla testa e scenderemo giù sino ai piedi per analizzare l'impatto che stress, sovrappeso e sedentarietà, le ho chiamate le tre S del camionista, hanno sulla salute generale e su quelle del nostro apparato muscolo-scheletrico. Quindi 800 24 00 24, chiamate se siete sovrappeso. Perché, dottor Gualerzi? Perché sì, perché il sovrappeso, il grasso non è solamente una questione estetica, ma appunto danneggia sempre di più la nostra salute. Ormai le ricerche dimostrano proprio che chi sta seduto, chi fa azioni tipo mangiare da seduta alla guida del camion, di altri automezzi, tende ad accumulare più peso, soprattutto quello viscerale. Quindi il grasso fa male, ma soprattutto fa male anche mangiare intanto che si guida. Benissimo, allora chiamate se macinate chilometri e chilometri. Perché, dottor Archetti, quale buona ragione potrebbe avere un nostro ascoltatore di intervenire? Ma intanto la prima battuta che vorrei fare è questa: intanto certamente è un lavoro altamente sedentario, ma questo non vuol dire per forza avere poi dei problemi di salute già scritti. Certo. Sono le abitudini sostanzialmente che fanno la differenza, quindi si tratta di modificare qualche cosa pur mantenendo ovviamente il lavoro che si fa, per avere poi anche dei miglioramenti generali importanti sulla salute. Quindi non preoccupatevene, ce ne occupiamo noi, possiamo dire ai nostri ascoltatori? Sì, sostanzialmente sì, no, preoccuparsi se si sta troppo seduti e soprattutto se si fa, se si compensa poco questo tipo di necessità professionale, diciamo. Quindi chiamateci anche se sentite la schiena dolente o pesante, avvertite a livello delle spalle un peso, una sorta di fardello doloroso, chiamate anche se non viaggiate su un camion, dottor Archetti, perché il profilo del camionista può dare dallo spunto anche per parlare di tante altre categorie di persone che non necessariamente sono alla guida di un camion, ma si riconoscono in alcuni tratti. Ovviamente, tutti quelli che in qualche modo hanno un'attività professionale che li obbliga a stare troppo, tra virgolette, seduti, devo dire che su questa trasmissione possono sentire qualche cosa di interessante. Allora chiamateci inoltre se fate fatica a digerire non solo quello che mangiate, e in questi giorni ci siamo dati abbastanza da fare, ma anche quello che vi gira in testa. Dottor Gualerzi, parleremo infatti di digerire i pensieri oltre che di digerire gli alimenti, perché parleremo anche di stress oggi. E diciamo che appunto chi sta molto spesso seduto anche alla guida spesso rimugina sui problemi, e non solo perché deve stare sempre attento a guidare, ma perché ha più tempo magari per pensare, e lo stress eccessivo ci anestetizza e ci allontana un pochino dai nostri bisogni e quindi anche dai bisogni di salute, quindi è molto importante parlarne insieme. Bene, allora iniziamo. Diciamo che la guida richiede attenzione, prontezza di riflessi e benessere generale del guidatore. Direi che sono requisiti più o meno simili a quelli che si richiedono ad uno sportivo, ad un atleta, ma consideriamo che il nostro uomo è sottoposto a tante sollecitazioni visive, sonore, che alzano il suo livello di attenzione ma che generano anche stress. Dottor Gualerzi, cosa produce a livello mentale questa sorta di stimolazione continua? Innanzitutto diciamo e chiariamolo subito che siamo fatti per fronteggiare ogni tipo di stress, e quindi non dobbiamo spaventarci, perché lo stress è anche un po' il sale della vita, è quella cosa che ci permette di essere sul pezzo, diciamo, no? Sì. Sempre attenti e pronti, però a patto che questo sia limitato e finito nel tempo. Il lavoro di chi guida è molto particolare perché non contempla pause, diciamo che se un guidatore si prende delle pause spesso succedono dei disastri, quindi chi guida diciamo proprio per questo motivo, perché deve essere sempre sul pezzo, è più soggetto a una reazione legata negativa dello stress. Diciamo che lo stress dal punto di vista finalistico è fatto per affrontare un qualcosa di fisico, un'emergenza, certo. Un'emergenza proprio da agire in modo fisico. Il guidatore per definizione è fermo, e quindi questi ormoni che vengono rilasciati, che ci aiuterebbero e che aiutavano l'uomo primitivo ad affrontare delle emergenze e svolgerle in modo fisico, invece chi sta fermo subisce l'effetto di questi ormoni, e li subisce a livello fisico e vanno ad alterare il nostro metabolismo, vanno ad alterare la propria circolazione, vanno ad alterare il proprio, diciamo, la fisiologia del cuore, dei vasi, vanno ad alterare anche i propri pensieri. Quindi diciamo che lo stress può agire proprio perché questi ormoni non sono utilizzati, ma vengono poi rilasciati nell'organismo, non utilizzati, e quindi generano un po' di confusione, e poi alla fine potremmo riassumere, come chiamiamo sempre, di infiammazione, di stress ossidativo e quindi di alterazioni metaboliche funzionali. Quindi è lo stress prolungato e cronico che attiva delle risposte a livello fisico e mentale. Infatti, dottor Gualerzi, è questo, no? L'essere sottoposto, sì, a questa sollecitazione continua. Infatti sono in molti a somatizzare lo stress con mal di testa, aumento dei battiti cardiaci, la sensazione di respiro corto, però anche la difficoltà a digerire. Questi sono i sintomi più comuni, dottor Gualerzi. Lei, sì, ci aiuta a individuare anche quelli più subdoli che non associamo automaticamente allo stress. Che cosa può succedere? Pensiamo sempre al nostro camionista. Beh, una cosa tipica proprio di chi guida, tra l'altro, è proprio quello di avvertire o dei dolori intercostali o delle parestesie alle mani, cioè delle sorti di formicolamenti, sì, alle mani, che non sono solo legati, come ci spiegherà poi il dottor Archetti, a problemi osteoarticolari, ma sono proprio delle reazioni legate allo stress che portano via, diciamo così in termini pratici, il sangue dai distretti che sono meno o che si dovrebbero utilizzare di meno in caso di emergenza, e vanno a portare il sangue più nella grande muscolatura. e quindi spesso il, diciamo, il flusso di sangue che va verso i muscoli toglie sangue alle mani, che diventano un pochino, diciamo, informicolate. Questo genera allarme spesso, così come i dolori intercostali, perché il respiro non segue delle dinamiche, diciamo, fisiologiche, quindi quando sotto stress si respira molto più con i muscoli accessori, quindi dolori intercostali, ma anche, come diceva la professoressa Bergamo all'inizio, voglie incontrollate di cibo, quindi lo stress ci altera la nostra percezione del senso della fame, ma ancora cambia un po' i ritmi, no, della nostra vita, incide naturalmente anche su questo. Dottor Gualerzi, l'ho interrotta, mi scuso. No, dicevo ancora stanchezza e spostatezza che vanno al di là di quello che stiamo facendo, perché in fin dei conti uno potrebbe dire stare seduto tutto il giorno o non fare nulla di particolare dal punto di vista di sforzo fisico non giustificherebbe una stanchezza, che invece è giustificata dallo stress che esaurisce proprio le nostre riserve energetiche, i nostri ormoni, e altera appunto la nostra capacità di reazione. E per finire, lo diremo anche dopo, disturbi gastrici, colitici e quindi anche reazioni cutanee, quindi tutto ciò che fa. Diciamo però che ci sono anche degli autotrasportatori che stanno benissimo, perché sennò stiamo dando un quadro tragico. No, sto scherzando, ma oggi vogliamo lavorare sulla prevenzione, vogliamo venire in aiuto alle persone che sono sottoposti a questo lavoro che è molto stressante, passano tante ore sedute, naturalmente tutto questo non migliora, no, il loro benessere, ma può rappresentare un fattore di rischio se, come ha detto il dottor Archetti, non si gioca con anticipo, non si individua bene la situazione per evitare di cadere nelle trappole. Prima di dare la parola al dottor Archetti, vorrei salutare Claudio da Latina e Corrado da Palermo. Vediamo Claudio che cosa ci racconta. Buongiorno. Buongiorno a voi. Io volevo innanzitutto confermare quanto detto ora dai vostri tecnici. Sono un perito informatico e da 21 anni faccio l'autotrasportatore. Sì, adesso lei sta guidando? Sì, sto a fare la nuova variante di valico. Senta, noi non la sentiamo molto bene purtroppo, Claudio. Proveremo a richiamarla, chiedo alla regia se la richiama. Intanto grazie per averci chiamato e passo a Corrado da Palermo, magari si sente un po' meglio. Corrado, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Eccolo qua. Salve, io non sono un autotrasportatore, ma mi occupo con la mia azienda proprio della gestione delle problematiche sonno correlate. Mm. La professoressa poc'anzi ha menzionato come una percentuale rilevante degli autotrasportatori manifesti un sovrappeso. Questo è un indice importante, un'indicazione importante per quelli che possono essere i disturbi sonno correlati legati alle apnee del sonno, certo. I famosi colpi di sonno che possono avvenire a chi guida, ma ovviamente a chi presenta una determinata sintomatologia. Bene, già nel 2014 l'Europa ha emanato una direttiva che è stata recepita soltanto quest'anno, verrà applicata dal 1 gennaio 2016, per cui i soggetti a rischio, inteso appunto come autotrasportatori, trasporti pubblici, devono fare un esame, la poligrafia o la polisonnografia. Polisonnografia che proprio fotografa la qualità del nostro sonno e dell'eventuale presenza delle OSAS o delle apnee notturne. E ovviamente doverla gestire dal punto di vista terapeutico per risolvere queste problematiche. È una sicurezza. Bisogna, come sempre, Corrado, arrivare ad una diagnosi perché poi si trova la soluzione. Grazie Corrado che ci ha fatto anche questo aggiornamento, le auguriamo un buon 2016. Dottor Archetti, parlavamo di stress che sicuramente disturba anche la qualità del sonno, ma condiziona anche la nostra postura. Ci sono dei dolori che possiamo considerare come prodotto di quelle tensioni che si innescano proprio per effetto dello stress. Che caratteristiche hanno? Ci aiuta a individuarle? Beh, intanto, giustamente come si diceva prima, stress, problemi poi di postura e ovviamente dolori. E certo. Sostanzialmente. Individuarli, è chiaro che cosa crea lo stress, soprattutto in chi guida? Tensioni muscolari gradualmente sempre più eccessive. Quindi, come diceva il collega, maggior tensione, minor circolazione, quindi poi contratture e di conseguenza dolori. A che livelli sostanzialmente? Collo, ovviamente, certo. Spalle, tutto il sistema del cingolo scapolo-omerale, le gambe e la schiena, sono sostanzialmente questi i punti su cui poi lavoreremo insieme a lei. E intanto abbiamo Claudio ci ha chiamato prima, autotrasportatore, cade la linea, ma dalla regia mi hanno scritto il suo messaggio. Il suo intervento era proprio legato, no, alle ore di impegno, che sono tante, dalle 13 alle 15 al giorno, dormono sui mezzi e quindi sono portatori, ci scrive Claudio, di patologie muscoloscheletriche, di cui naturalmente parleremo con il dottor Archetti. Dottor Archetti, un consiglio proprio per giocare sulla prevenzione? Il consiglio fondamentale è questo: guidare in ogni caso vuol dire cercare comunque di essere in forma indipendentemente da tutto, quindi fare qualcosa che ci piace, che ci aiuti in qualche modo a tenerci in forma. E l'altra cosa ovviamente fondamentale per chi sta tante ore è quella di fare un'attività fisica molto semplice che si chiama stretching. Ne vogliamo, ricordarle, dare proprio i fondamentali? Che vuol dire? Questo stretching, che vuol dire sostanzialmente cercare di mantenere i muscoli il più rilassati, il più allungati possibili, e naturalmente cercando anche di migliorare la nostra articolarità delle grosse articolazioni, il collo, le spalle, il bacino, l'anca e le gambe. Andrea, questo bisogna, ecco, è importante non solamente per chi guida un mezzo pesante, ma anche per chi, pensiamo, abbiamo dedicato una puntata con Deborah agli agenti di commercio, chi macina e macina chilometri e quindi sta seduto ore e ore alla guida. Andiamo ad Andrea che ci chiama da Mantova. Buongiorno Andrea. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Grazie per averci chiamato. Sì. Cosa le dice questa puntata dedicata a lei? Allora, intanto io volevo aggiungere una quarta S alle tre che voi avete citato. Sì, pensi tutte S a me mi sono capitate, poteva capitarmi un'altra, no, lettera, no, la S, lei me ne aggiunge anche una quarta, mi dica. Le aggiungo una quarta, che oltre che appunto allo stress, al sovrappeso e alla sedentarietà, io aggiungerei anche le sigarette, però... Questo comunque è un mal comune che non è indicativamente, diciamo, annesso all'autotrasportatore, però sicuramente chi è in giro dalla mattina presto fino a tarda sera, dovuto appunto dallo stress, tende comunque a fumare di più. Esatto. Inoltre volevo spezzare comunque una lancia a favore del medico che prima parlava appunto dello stile di vita, del sovrappeso, che comunque non è prettamente dell'autotrasportatore essere in sovrappeso, nel senso che ci mettiamo tanto del nostro anche noi, perché tu Nicoletta sei seduta però non sei in sovrappeso, chi fa l'impiegato non è in sovrappeso, è comunque un po' lo stile di vita che implica comunque anche a mangiare in abbondanza, un po' anche per gli orari, i turni, certo, i turni. E sicuramente c'è anche poca volontà comunque nel voler tenersi in forma, perché io quando tempo mi ritaglio magari un'orettina, vado a fare una camminata, a piedi. Quindi Andrea mattina, dice appunto, è un mix, sicuramente, no, gioca anche il ritmo di vita. Pesa anche sul sovrappeso, Andrea? Che poi scarsa volontà. Scarsa volontà. Ecco. Ricordiamo, e abbiamo anche aggiunto una quarta S, che sono le sigarette. Di queste di tutto parleremo subito dopo i mercati con il dottor Archetti e il dottor Gualerzi, che ci daranno preziose indicazioni per gli autotrasportatori, ma chi in qualche modo si riconosce in queste quattro S. A tra poco. Cuore e denari. Siamo tornati insieme in questa puntata. Cuore e denari si sta prendendo cura in particolare di una categoria di lavoratori a cui vogliamo particolarmente bene. Ci scrivete quasi ogni giorno, ci mandate sempre i vostri tweet, i vostri sms, quella degli autotrasportatori, dei camionisti. Tra loro ci sono tanti nostri ascoltatori. Noi oggi siamo partiti dalle 3 S dei camionisti, che sono diventate 4, e quindi sedentarietà, sovrappeso, stress, e il nostro ascoltatore ha aggiunto sigarette. avete? Vi riconoscete? 800 24 00 24 in linea con noi il dottor Dario Oscar Archetti, che è fisioterapista specializzato in tecniche di medicina manuale, e il dottor Massimo Gualerzi, cardiologo e, come voi conoscete bene, esperto anche in metabolismo. Dottor Gualerzi, siamo arrivati al punto dolente, il sovrappeso. Ma quando parliamo di sovrappeso, al di là delle formule, dei conteggi, di che cosa parliamo esattamente e dove lo localizziamo? Perché c'è sovrappeso e sovrappeso. Sì, parliamo di sovrappeso al di là appunto dei calcoli, delle varie formule che poi magari vediamo. Quando cominciamo ad accumulare grasso oltre normale, condizione che normalmente avviene quando le entrate banalmente superano o comunque diciamo sono maggiori rispetto alle uscite. Sì. Ma anche si localizza in questo caso, c'è chi lo localizza più a livello centrale, quindi la classica forma mela o la classica forma pera, più nella zona diciamo inferiore o sotto l'ombelico. Sono due caratteristiche molto diverse. Non c'entra tanto quanto mangiamo, ma c'entra la qualità del cibo, come abbiamo detto tante volte, ma anche, come diceva il radioascoltatore prima, Andrea, diceva anche voi siete seduti, ma in realtà l'aspetto diverso è proprio il come mangiamo. Spesso l'autotrasportatore mangia intanto che guida, mangia seduto, mangia in una situazione diciamo ormonale o metabolica o neuroendocrina, chiamiamolo così in modo un pochino più complicato, completamente diverso, perché mangiare lo stesso panino in una situazione di stress, di guida o comunque intanto che siamo indaffarati a fare altro, ha un impatto sul nostro metabolismo molto diverso. Ecco che allora si genera il sovrappeso, un sovrappeso patologico, al di là delle calorie che abbiamo mangiato, al di là anche del cibo che abbiamo mangiato, perché mangiare in modo rispettoso dei nostri ormoni, della nostra tempistica, è molto più efficace rispetto a stare a dieta o mangiare meno calorie. Quindi non è solo cosa, ma anche come mangiamo. Anche come siamo, mangiare in posizione tranquilla, seduti a tavola, intanto che magari si discorre amabilmente o si discute appunto della qualità del cibo, fa ingrassare molto meno rispetto a mangiare intanto che camminiamo, e quindi apparentemente che dovrebbe essere un'attività snellente, o addirittura che scriviamo al computer, telefoniamo, stiamo guidando un camion. Noi naturalmente focalizziamo la nostra attenzione in particolare sul grasso addominale, no? Che è ancora lui sempre incriminato, è un grasso che è un vero e proprio organo, che è responsabile di quell'infiammazione che è considerata un po' il denominatore comune di tutte quelle malattie che vengono genericamente chiamate malattie del benessere, dalla sindrome metabolica al diabete. Quindi più che il sovrappeso in sé fa la pancia. A proposito, che misure non deve superare? Stiamo parlando di uomini? Ma dal 2006 in avanti si sono ridotti ulteriormente, ormai un po' di anni, quindi siamo abituati a 80 cm nelle donne e 94 negli uomini, quindi sostanzialmente sono i due cut-off, e mi raccomando che la misura deve essere fatta passando con un metro ad esempio da sarta sopra l'ombelico per le due ossa che sono le crepe iliache che diciamo formano i fianchi, quindi a livello proprio del punto vita. Non quindi trovate nel camion un posto anche per il metro da sarta. Dottor Archetti, lei per la pancia ha qualche idea? Per queste, dalle maniglie dell'amore al grasso addominale, che creano dei problemi, no? Importanti per la nostra salute, abbiamo detto, ma lei può dare delle indicazioni? Concordo assolutamente sul fatto che prima cosa cercare un attimino di capire come mangiamo e che cosa mangiamo. E l'altra cosa in assoluto, tutti danno indicazioni in assoluto in questo senso, è il movimento, in particolare il cammino, in particolare la corsetta, e in particolare un'attività fisica cosiddetta aerobica, cioè che cerchi di bruciare, cioè non esageratamente forte, ma medio lenta, in modo da bruciare prevalentemente i grassi piuttosto che gli zuccheri. Quindi funziona la corsa medio lenta per la pancetta o pancione? Beh, aiuta molto sostanzialmente. Anche il camminare a ritmi elevati aiuta molto, ecco. Certamente ci vuole una certa costanza. Ecco, diciamo. Ma come si può creare una costanza in un lavoro come quello dell'autotrasportatore, che sembra non avere tempo per sé? Beh, intanto approfittare di qualche sosta che normalmente fanno per ovviamente camminare, non dico per fare dell'esercizio fisico, comunque per camminare e muoversi, insomma, cercare anche, basta un semplice parcheggio un attimino un po' più distante dal ristorante per fare due passi. E poi comunque sarebbe obbligatorio nel tempo libero darsi almeno un paio di giorni in cui si fa specificatamente del cammino, della corsetta. Allora, diamo naturalmente la linea ai nostri ascoltatori che ci stanno chiamando. Andiamo da Francesco, ci chiama da Milano, e subito dopo sentiamo Graziano da Biella. Francesco, buongiorno e benvenuto e auguri. Buongiorno, buone feste a tutti. Grazie per avermi chiamato. Io riparo fotocopiatrice a Milano. Sì. Faccio circa 300 km al giorno in tutto l'Interland. La cosa che mi pesa tanto... non sono neanche i chilometri, quello che sto notando io è la mancanza di gentilezza, cioè da quando si entra in macchina, si va nel traffico, c'è aggressività, c'è malumore, tutti ti aggrediscono, compresi i clienti che ti aspettano. Ti aspettano al varco. La macchina rotta, quindi appena entri scaricano su di te tutto. Le loro, quindi io sto facendo un lavoro su me stesso, ecco, nel senso appena arrivo non voglio più farmi buttare addosso questa negatività, questa cosa qua, quindi quando arrivo magari mi dico la stavamo aspettando e allora gli dico mi siete mancate anche voi, quindi insomma poi secondo me bisognerebbe un po' tutti quanti ridimensionare Francesco, il lavoro, ma ecco. quanto ha ragione, la qualità del nostro lavoro la facciamo anche noi, proprio nel nostro, con il nostro atteggiamento. Dottor Gualerzi. Sì, sicuramente è molto più semplice cambiare il nostro modo di percepire le cose piuttosto di pretendere di cambiare tutti gli altri. Lo stress in realtà non è ciò che ci circonda, ma è dentro di noi, quindi è il modo che abbiamo di approcciare le cose, un modo per appunto antagonizzare gli effetti negativi dello stress e imparare a gestirlo, imparando a gestire anche le emozioni che potrebbero generare, le emozioni negative, gli atteggiamenti degli altri. Quindi mi sembra che lavorare su se stessi e su riflettere un attimo sia una strategia vincente anche dal punto di vista metabolico questo. Si può proprio lavorare su se stessi, ci sono, no? Si diceva un tempo, conta fino a 10, respira. Il dottor Archetti potrebbe dire anche fatti una passeggiata, perché ormai sono noti, no? Gli effetti del cammino anche nella gestione dello stress negativo. Assolutamente. Inoltre vincere un attimino la pigrizia aiuta un momentino a essere anche un po' più ottimisti, quindi essere un po' più sereni. Andiamo da Graziano, che ci chiama da Biella. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno Graziano, eccoci qua. Vede, insieme il 28 di dicembre. Bene. Oh, e questa è già una buona cosa. Ascolti, che ci racconta? Ascolti, io faccio l'autotrasportatore da 30 anni. Sì. Quindi prima pesavo 110 kg, adesso ne peso 85. Adesso ho iniziato a correre da 4 anni, faccio corse in montagna, maratone, L'unico problema è il grasso viscerale, quello lì proprio non riesco a mandarlo via, non so più cosa fare. Sei affezionato? Quello lì io ho perso 25 kg in un anno, meno di 85 kg non scendo, e quello lì non se ne va via. Cioè io sono 84 la circonferenza della pancia, sono al limite, io mangio integrale, corro, faccio di tutto, ma la pancia non scende. Allora chiamo subito i miei due esperti, dottor Gualerzi e dottor Archetti. Inizia il dottor Gualerzi, che cosa sbaglia, che cosa potrebbe fare di più o di diverso Graziano e tutte le persone che in lui si riconoscono naturalmente? E l'emblema di quello che diciamo spesso, è più facile perdere il grasso ovunque fuori che a livello del grasso viscerale, i cui meccanismi diciamo di sostentamento sono molto più complessi e prendono origine appunto dalle complesse interazioni dei nostri ormoni con la nostra testa e anche la qualità del cibo. Quindi io non so bene lui cosa mangi, anche se ha detto mangi integrale. Delle volte è sufficiente, e proprio sto scrivendo un libro su questo, no, valutare anche il momento giusto in cui mangiare i cibi giusti e quindi magari cambiare orario ad alcuni ingredienti per generare risposte ormonali diverse. In più, ci faccia un esempio, dottor Gualerzi, perché ci parla degli orari, ci mette sul gusto, come si dice, a proposito di cibo. Sì, ad esempio, per dire, diciamo sempre la colazione, no, deve essere ricca di carboidrati per generare una risposta subito energetica all'organismo, però chi accumula più grasso a livello addominale tende ad avere dei livelli di cortisolo già la mattina molto alti, che di per sé generano alti livelli di glicemia circolanti. Ecco che per andare ad antagonizzare in questo tipo di persone magari è più giusto avere un'alimentazione, una colazione un po' più proteica rispetto ai carboidrati, quindi mangiare magari più lo yogurt, anche magari di vegetali, tipo lo yogurt di soia, ma alimenti un pochino più proteici, che non vadano ad aumentare di nuovo attraverso gli zuccheri questa risposta già glicemica alta legata al cortisolo, che è l'ormone dello stress, che molto spesso accomuna, come abbiamo detto, chi fa lavori stressanti. Quindi iniziare con le proteine, ad esempio. Possiamo provare per un 15 giorni, un mesetto, a cambiare, no? Quello che mangiamo, anche in funzione dell'orario in cui lo mangiamo. Corretto? Mentre l'altro consiglio, che mentre normalmente diciamo che i carboidrati non vanno benissimo alla sera, ecco, chi ha questo tipo di problema insistente, cioè la pancia che non cala, potrebbe anche, sempre alla luce di questi complessi interazioni con gli ormoni, aumentare un pochino la quota di carboidrati complessi, quindi tipo riso, alla sera, e quindi sovvertire un po' quest'ordine, che va proprio a ottimizzare l'assetto ormonale di queste persone. Dottor Archetti, il sovrappeso è diciamolo bene, anche una palla al piede per le nostre articolazioni, che sono sottoposte a un lavoro straordinario, a un super lavoro. Chi ne fa maggiormente le spese? Perché immaginando una persona che sta ore e ore alla guida, sicuramente avrà la schiena a pezzi quando si alza. Beh, certamente il sovrappeso è una cosa che condiziona anche il movimento della colonna vertebrale, su questo non c'è dubbio. Tanto è vero che molti autotrasportatori soffrono poi di problemi alla colonna vertebrale. Devo fare un attimo i complimenti a quell'autotrasportatore che ha telefonato, che diceva che lui intanto ha perso 15-20 kg. Non è una cosa semplice da fare. Resta un pochettino di grasso sulla pancia, va bene. Si può aumentare un pochettino il lavoro aerobico, si può cercare un momentino di incrementare l'attività fisica, migliorare, come diceva il collega, tutto il meccanismo alimentare, e poi ovviamente si potranno avere risultati magari pochi ulteriori, perché un conto è abbastanza poi semplice e facile perdere un po' di chili, e diventa un po' più difficile perdere gli ultimi centimetri, diciamo, ecco. Dottor Archetti, per chi ci sta scrivendo al 349-238-6666, sono tre messaggi, non sono firmati, ma un consiglio da parte sua a chi deve guidare con il mal di schiena. Funzionano le fasce? Che cosa suggerisce il vostro esperto? Per il mal di schiena, assolutamente, quando si può, fare dei piccoli micromovimenti anche durante la guida, soprattutto in particolare del bacino. Un consiglio molto utile può essere anche, quando si comincia a percepire la stanchezza della colonna vertebrale, portarsi una fascia, un supporto lombare, e in quel momento, da quando si comincia a capire che si è stanchi, sostanzialmente mettere questo supporto, che aiuta a mantenere un po' più stabile la colonna vertebrale e a contrastare sostanzialmente il dolore. Questa è la cosa fondamentale da fare mentre si viaggia. Le altre cose da fare invece nel tempo libero, sostanzialmente, poi le diremo anche un pochettino più avanti. Sì, tra poco infatti ho chiesto al dottor Gualerzi e al dottor Archetti di preparare una sorta di decalogo per il nostro autotrasportatore o per chi si riconosce nelle 3S del camionista: sedentarietà, sovrappeso e stress. Adesso andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, e poi ci fermiamo perché è arrivato il momento della nostra rubrica L'aria che respiriamo, e torniamo poi ad occuparci di voi. A tra poco. Cuore e denari. E adesso ci occupiamo dell'aria che respiriamo, la stiamo monitorando a Cuore Denari da una decina di giorni e continueremo a farlo fino alla fine dell'anno, insieme al dottor Mauro Mocci, medico ISDE, Associazione Medici per l'Ambiente, che ci conduce ogni giorno in tre città italiane. Buongiorno dottor Mocci, bentornato. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora, dove andiamo oggi? Oggi andiamo a Venezia. Romantico. Andiamo a Venezia, ma perché andiamo a Venezia? Perché si parla tanto di traffico questi giorni. Sono andato a vedere Venezia nell'area della Giudecca, sì. Quindi non c'è traffico, eppure gli diamo un giallo, perché anche lì i valori di PM non sono così bassi come uno si aspetterebbe, perché purtroppo le polveri vengono trasportate, fanno chilometri, quindi non solo nell'area dove si producono le polveri, ma anche nelle zone limitrofe. certo. Anche nelle zone umide, perché se andiamo a vedere Venezia Mestre, cioè la terraferma, diamo un rosso, mentre invece Venezia Laguna, zona lagunare, mi tocca un bel giallo. Quindi poi, Venezia gialla, poi? Venezia gialla, poi scendiamo ad Ancona che invece è un verde, per fortuna qualche città in Italia è il verde oggi. Ci voleva un verde, perché oggi tutti i giornali titolano emergenza smog, poi ecco, sull'emergenza avrei qualche, no, qualche perplessità, qualche perché, no, perché insomma emergenza è una parola che non... Qualche riflessione, ne parliamo da giorni, quindi anche per noi non era emergenza, lo come se lo l'avessimo saputo già prima. Poi scendiamo ad Avellino, sì? E Avellino per esempio è rossa. Parecchie città della campagna sono rosse. Diamo la nostra maglia nera e maglia rosa, come facciamo tutti i giorni. La maglia nera oggi la voglio dare a Capannori, ma per un motivo. Capannori è una città in provincia di Lucca che è virtuosa per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, è molto attenta all'ambiente, quindi è una città che merita attenzione perché è davvero virtuosa. Peccato che per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, invece sono parecchi giorni che sta superando di molti limiti. E allora da una città così virtuosa non si aspetterebbe qualche iniziativa, quindi gli do una maglia nera a Capannori perché deve fare meglio, come richiamo. Sì. Una maglia rosa invece la do a Palermo, perché proprio l'altro ieri è stata deliberata la ZTL, una zona a traffico limitato, con delle iniziative che potrebbero essere utili a ridurre l'inquinamento, a parte la messa in funzione del tram, che è una delle soluzioni secondo me che dovrebbe essere adottate in molte città, tornare al tram alimentato elettricamente ovviamente con energia prodotta da rinnovabili e quindi che possano ridurre l'inquinamento, e l'iniziativa che hanno fatto di gratuità della linea a chi farà una sorta di abbonamento, riduzione di auto di una certa età o comunque di auto che non rispettino le norme europee, che non siano E3, E4, E5, e quindi mi sembra che una maglia rosa come incoraggiamento per Palermo va una data. Bella iniziativa, mi dica cosa ne pensa, ne avevamo già in parte commentato, no? Delle targhe alterne o del blocco del traffico milanese dalle 10 alle 16, guarda, funzionano, guarda. Oppure perché anche l'inquinamento ha le sue ore, certo, un po' come la nostra pressione o come la febbre, quindi esatto. Funzionerà? Fermare il traffico in quelle ore secondo me serve a pochissimo, perché il traffico maggiore, cioè fermare il traffico dalle 10 alle 16 serve a poco, perché il traffico maggiore noi lo abbiamo prima delle 10 e dopo le 16, quando la gente va al lavoro e quando ritorna dal lavoro, quindi fermare il traffico in quelle ore serve veramente a poco, e comunque dovrebbero essere delle iniziative che dovrebbero avere più tempo, non soltanto un giorno, due giorni, solo nell'emergenza. E noi parliamo di emergenza, ma questa non è un'emergenza. I dati, oggi si parla di mortalità, tutti i giornali ne parlano, le TV, di aumento della mortalità causata dall'inquinamento. Ecco, non è che uno esce, respira e rimane stecchito. No. Ecco, no, c'è una riduzione degli anni di vita. Ecco, sono morti premature, cioè una morte prematura. Diciamo che chi ha... chi è affetto da determinate patologie a causa dell'inquinamento può anticipare la morte. Quindi sono dati che noi sapevamo già. L'Agenzia Europea per l'Ambiente già a novembre aveva consegnato questi dati, ma addirittura nel luglio di quest'anno la Comunità Europea aveva inviato una lettera di messa in mora all'Italia, e poi alla quale ha fatto seguito a novembre una procedura di infrazione per il superamento dei limiti di polveri sottili in Italia. Quindi non è una novità. Nulla di nuovo. In 19 zone, tante 10 regioni sono che hanno superato: il Veneto, la Lombardia, la Toscana, le Marche, il Lazio, la Sicilia, il Molise, la Campania, l'Umbria. Sono poche quelle che si salvano. Possiamo quindi dire che gli anni di vita in più libere dalla malattia si ridurranno sempre di più. Esatto. A causa proprio di questo inquinamento. Questo inquinamento che in sé, l'inquinamento dell'aria in sé, le polveri sottili, ma dobbiamo metterci anche gli ossidi di azoto che sono importanti, anche gli ossidi di zolfo, ma il benzene e poi tutti i metalli pesanti che vengono trasportati da queste polveri, che sono l'arsenico, il nichel, il cadmio, il mercurio ed altri, sono questi che provocano danni alla salute, danni immediati e danni che si manifesteranno nel tempo. A lungo termine. Noi intanto, dottor Mocci, ci sentiamo domani, puntata dedicata proprio all'aria che respiriamo. Ci concentreremo naturalmente insieme anche al dottor Franzetti sull'aria che respiriamo, quindi le alte vie aeree, naso, gola. Molti di voi sentiranno questa sorta di pizzicorino, vedranno, magari avranno notato di avere dei raffreddori ricorrenti. Domani insieme al dottor Mocci e al dottor Franzetti ne parliamo, cercando di suggerire anche delle soluzioni, che cosa si può fare, che cosa dobbiamo fare soprattutto per i nostri bambini, oltre che applicare un po' il buon senso. Grazie dottor Mocci, noi ci sentiamo domani. Grazie a voi, buona giornata. E noi torniamo insieme al dottor Gualerzi e al dottor Archetti, perché vogliamo un po' scrivere insieme il decalogo del camionista o di chi si ritrova descritto in questo profilo, quindi sovrappeso, stressato, sta tante ore alla guida, è sedentario, i nostri ascoltatori stanno aggiungendo delle altre S, tra cui la sigaretta, quindi magari fuma. Dottor Gualerzi, iniziamo da lei. Sì, diciamo qualche consiglio che è estrapolato dalla puntata. Allora, diciamo, primo punto, non mangiare intanto che si guida, quindi cercare di fermarsi e mangiare in posto tranquillo. Sì. Scegliere cibi naturali e semplici, questo per evitare di appesantirsi e di quindi generare quel circolo vizioso che ci porta poi anche al caratteristico abbiocco. Aiutarsi eventualmente con integratori, sia per digerire, ad esempio a base di pendero, quindi integratori naturali, oppure per il metabolismo, che faciliti appunto la produzione della massa magra riducendo la massa grassa, come l'arginina, oppure come la cannella. Ecco, aggiungere cannella aiuta molto il metabolismo degli zuccheri e riduce appunto la massa grassa. E anche la rhodiola rosea, ricordiamo, una pianta che toglie quella fame nervosa. Altro punto, lavorare sulle proprie percezioni ed emozioni. Abbiamo visto come essere immersi nel traffico genera spesso rabbia, ma sono reazioni, come ci ha insegnato il radioascoltatore di prima, che possono essere dominate lavorando un po' su se stessi e quindi andando a interrompere quel circolo vizioso che porterebbe poi alla genesi delle problematiche non solo metaboliche ma anche cardiovascolari e di tutto l'organismo. Ed infine, sempre abbiamo sentito i nostri ascoltatori, non ho tempo, invece dico porsi degli obiettivi e degli scopi precisi nel campo salutistico, perché laddove c'è interesse, laddove c'è voglia, si trova anche il tempo per fare qualcosa per se stessi, anche per, appunto, come abbiamo detto prima, per far movimento, per scegliere il cibo giusto, per ritagliarsi quei 10 minuti per sé che fanno bene a tutti e non solo ai camionisti. Grazie al dottor Gualerzi. Passiamo invece al dottor Archetti. Consigli da mettere subito in pratica, dottor Archetti. Allora, la prima cosa direi cercare di fumare il meno possibile. O non fumare del tutto, smettere. O non fumare del tutto. Poi, ovviamente, lo slogan semplice che è una sosta in più per una qualità del lavoro in più. Bello questo, mi piace, una sosta in più per una... bello, me lo appunto. Poi direi certamente approfittare appunto di ogni sosta per cercare di camminare e muoversi, capire quando a un certo punto poi la vista comincia a diventare un momentino pesante, cioè si stanca proprio, si sente il collo un attimino che ci si irrigidisce, eccetera, cercare un attimino poi appunto di rallentare lo stress. Approfittare delle colonne, dei rallentamenti per fare dei piccoli esercizi di mobilità delle spalle, della schiena, dei micro movimenti che possono essere utili. Noi per esempio diciamo a tutti quelli che hanno dei problemi cervicali di utilizzare per esempio il naso come se fosse una matita e disegnare sostanzialmente lentamente dei numeri da 1 a 9. È un esercizio che per la colonna cervicale e per i dolori cervicali fa molto bene. Scrivete i numeri da 1 a 9 con la punta del naso per aria quando siete fermi. Tenere fatto lo stretching nel tempo libero, fondamentale per chi sta troppo seduto. Sì, va bene anche per chi è seduto alla scrivania, lo stretching fa bene a tutti, una mano santa. Esattamente, privilegiare poi attività che in qualche modo siano mobilità articolare e anche il nuoto. E anche il nuoto, non ne abbiamo parlato ma torneremo a farlo perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Ringrazio il dottor Gualerzi, il dottor Archetti, trovate naturalmente la puntata e il nostro decalogo nel podcast. A domani, buona giornata.